Ciao Chiesa, come stiamo? Tre persone stanno bene? Sono contenta? Stai bene? Dire alla persona vicino a te, sto bene, sono qui e sto bene, voglio dare il benvenuto a tutti coloro che non conosco. Se sei qui per la prima volta è un piacere averti, è un piacere essere qui insieme, vedere quello che Dio vuole fare insieme, perché se siamo qui e se siamo noi è perché non ci aspettiamo qualcosa che accada dal palco, perché dal palco può accadere ben poco, ma il Signore si serve di ognuno di noi per portare questa Chiesa ad un altro livello. Per cui sentiti parte del processo, sentiti parte integrante del cammino che il Signore ci sta dando, perché sapete, essere qui dal palco non è una garanzia. Anzi, devo dire che molto spesso è anche molto impegnativo, però far parte di una Chiesa che cammina insieme, globalmente, questo è più bello, questo è più bello. Quindi girati dall'altra parte e digli, oh, meno male che sei venuto, digli così. Lui lo capisce, lei lo capisce, ok? Stasera voglio parlarvi... Oh, questa cosa breve dovevamo dire, cioè proprio ci siamo aperti. 3 settimane fa ho cominciato a predicare su un messaggio, su un capitolo della parola di Dio che ha cambiato il mio cuore, perché per chi non c'era può trovare la prima parte di questo messaggio su YouTube, grazie a Dio registriamo le predicazioni. Quindi se non eri qui il 22, credo, potrai godere di questo, della prima parte su internet, ma stasera voglio continuare a prendere quello che c'è nella parola in un capitolo che ha profondamente cambiato il corso della mia esistenza, e più lo leggo e più mi cambia. E sono strafelice che la parola di Dio abbia questo potere, perché è viva, perché più stiamo con la parola di Dio, più veniamo trasformati. Non è un libro che ci piace, scritto bene, ci sono delle belle storie e basta, no, è un libro che ha il potere di cambiarci. È un libro che ha l'autorità di cambiarci. E se non ce l'ha, per piacere, stasera, lascia la tua autorità e prendi questa autorità nella tua vita. Perché da questa autorità noi diventiamo più simili a Cristo. E io voglio essere più simili a Cristo. Quanti con me? Che bello! Quindi prendiamo la parola di Dio, mangiamocela, leggiamola. Vogliamo leggere insieme Ezechiele 37. Un capitolo, una storia che comincia in un cimitero e finisce in una caserma. E mi piace. Vogliamo leggerlo insieme? Lo troveremo sullo schermo. Dal verso 1, la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo ad una valle di ossa. Mi fece passare presso di esse tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato. E come io profetizzavo, si fece un rumore, ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne, la pelle, ricoprirle. Ma non c'era in esso nessuno spirito. Allora egli mi disse, profetizza lo spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo spirito, così parla il Signore Dio, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. E io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro, così parla il Signore Dio, ecco io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio. metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. E vi tirerò, scusate, vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Che grandioso capitolo, vero? Ci sentiamo già riempiti solo dopo averlo letto? Ok, possiamo andare a casa. È un capitolo così fresco. È un capitolo che ti dà uno screening della mia e della tua situazione. Io sono sicura che molti di noi sono venuti qui, come me, con una perfetta conoscenza della propria valle di ossa secche. Tu sai, e lo sai molto bene, la tua valle di ossa secche. Sì? La conosciamo bene, la conosciamo precisamente, conosciamo quanto sono secche le ossa, conosciamo quante sono quelle ossa. Ma la parte più bella è che il Signore fa sempre un miracolo. Lui non ci lascia mai nella condizione in cui veniamo. Lui non ci lascia mai così come siamo arrivati. E io prego, Chiesa, che noi usciremo da questo incontro con una valle piena, con un esercito numeroso. Amen. Vogliamo pregare un attimo? Metti un braccio sulla persona che hai vicino. Se non la conosci, presentati. Preghiamo. Signore, grazie perché la tua parola è viva. Grazie perché la tua presenza è qui. Lo sentiamo forte. Sei fedele nell'esserci. Domenica dopo domenica ti preghiamo di trasformare il nostro cuore stasera, che sia più simile a te, che la tua parola non possa rimanere in superficie, che non ci possano essere impermeabili sul nostro cuore o sulla nostra mente, ma Signore strappa ogni impermeabile che non permette alla tua parola di entrare in profondità, perché possiamo diventare più simili a te, adorarti e darti gloria, quella che meriti, nel tuo nome Gesù. Amen. Amen, io voglio uscire da qui non impermeabilizzata, sì? Io voglio uscire da qui bagnata da quella presenza straordinaria della presenza di Dio. Io voglio uscire da qui con tutta la mia valle di ossa molto chiara ai miei occhi. Voglio uscire da qui che non la vedo più. Voglio uscire da qui che non c'è più e che è diventato un esercito grande e numeroso, sì? Quanti con me ci sei? Vuoi vivere un cambiamento stasera? Io so che ognuno di noi è venuto qui e che si aspetta questo. Quindi, Chiesa, prendiamo la nostra fede e prendiamoci le conquiste che il Signore ci vuole dare. Ezechiele ha profetizzato. Ezechiele è stato mandato a parlare per bocca di Dio ad un popolo triste. Quanti di noi hanno vissuto l'esperienza di parlare per bocca di altri? Quando parliamo c'è già una grossa responsabilità, ma se qualcuno ti dice vai lì, e di questo, vai a quella persona, e di questo, beh, le cose cambiano, perché c'è più responsabilità, vero? C'è più responsabilità, io sono qui e dovrei parlare da parte di Dio, dovrei parlare da parte del mio pastore, e la mia responsabilità è grande. Sapete, ultimamente ero in aereo e stavo andando a predicare in una chiesa al nord, e una persona seduta accanto a me mi ha chiesto: ma come mai sei in viaggio? Perché sei in viaggio? Qual è il motivo del tuo viaggio? Sto andando a predicare la parola di Dio ad una chiesa evangelica pentecostale, perché e come lo spieghi ad una persona che non conosce Gesù? Ho detto: Signore, ti prego, guidami nel dire questa cosa. E così ho detto queste parole. Ho detto: tu conosci Gesù? Sì, ok, ho detto, la maggior parte di noi conosce Gesù appeso ad un legno. Quel Gesù che tutti siamo abituati a vederlo appeso ad un legno, io l'ho sperimentato, l'ho vissuto nella mia vita e la mia vita è cambiata. Ecco, oggi vivo con l'unico scopo di raccontare che questo Gesù è vivo a quante più persone possibili e vado in posti in cui posso incoraggiare le persone a dire anche tu devi dirlo ad altri che Gesù è vivo. L'ho spiegato così, sono andata bene? Ah, ok, perfetto. Questo è lo scopo della nostra vita, Chiesa. Cosa devi fare domani? Prendere Gesù e metterlo nella vita degli altri. Questo è lo scopo del grande mandato, in maniera parafrasata. Qual è lo scopo che Dio ha per noi? Vivere di più Lui, essere Suoi discepoli, per far essere discepoli di Lui a tante altre persone da tutti i popoli. Questo è il grande mandato. Qual è lo scopo della tua vita? Qual è lo scopo della mia vita? vivere molto di più Cristo Gesù e farlo vivere agli altri. Cioè prendere quello che noi viviamo la domenica, il lunedì, nella nostra cameretta, ogni giorno, e spingerlo con autorità, con forza, nella vita di chi non lo conosce ancora. E quando entriamo nella vita degli altri, c'è un mondo, c'è veramente un mondo che ci contrasta, che non vuole che noi mettiamo la parola di Dio nella vita delle altre persone. C'è guerra nella vita di chi c'è intorno, c'è guerra nelle nostre famiglie, c'è guerra nei nostri paesi, c'è guerra nei nostri vicini di casa, c'è guerra nei nostri colleghi di lavoro, nei nostri amici di scuola. Voglio farvi vedere una foto, perché espone veramente la nostra posizione in Cristo quando andiamo a spingere la volontà di Dio negli altri. Dovrebbe essere sullo schermo. Questa è una foto fantastica, forse l'abbiamo vista, vero? L'abbiamo vista tante volte. In questi giorni si celebrano 27 anni dalla rivoluzione che c'è stata in Cina, e questa è una foto rappresentativa della primavera cinese, ed è stata il 4 giugno dell'89, e ci ricordiamo tutti l'immagine di questo studente senza armi, senza nessun tipo di possibilità di fermare questi carri armati, però ce lo ricordiamo tutti lì, davanti a questa fila. E sai cosa è successo? C'è un video che gira su YouTube, che i carri armati hanno dovuto cambiare strada. Hanno cercato di scansare quest'uomo. Cosa ha fatto quest'uomo? Niente, era lì. Era lì ed era in piena autorità. Con quale autorità non lo so, ma era lì per cambiare il corso della storia. C'è riuscito? Non ha cambiato quella guerra, però ha cambiato la storia ed è diventato un eroe. Ed è diventato un emblema di persone che si mettono al fronte. Questa è la nostra rappresentazione. Questo è il nostro scopo, vedere questi carri armati nella vita di persone e dire no, io fermo, io porto questo, io faccio entrare, io spingo la volontà di Dio, io spingo la parola di Dio, io spingo il destino che Dio ha per ogni persona. Non mi importa cosa troverò dentro, non mi importa quanta guerra c'è, non importa quanta guerra dovrò sopportare, ma io voglio vedere quelle valli di ossa secche cambiate. Io lo voglio vedere per me, lo voglio vedere nella mia famiglia, lo voglio vedere nella vita delle persone intorno a me, che Dio mi dà come responsabilità. Sì? Ti piace, Chiesa? Sentiti un'eroina, sentiti un eroe, perché questo è il nostro ruolo, ed Ezechiele ha fatto questo. Ezechiele ha profetizzato, e Dio lo ha chiamato a profetizzare al popolo di Israele all'inizio della deportazione, contemporaneamente a Geremia. Diciamo che Ezechiele si colloca nell'inizio della deportazione, Daniele alla fine dell'esilio. E quindi che cosa aveva davanti Ezechiele? Ezechiele aveva un popolo distrutto, un popolo pieno di speranza svanita, un popolo pieno di promesse, un popolo pieno di speranza, di scopo. Avevano un posto, avevano la terra promessa, avevano uno scopo nel mondo, essere il popolo speciale di Dio, e davanti c'era un popolo in prigione. Ezechiele si trova davanti a questa valle di ossa secche, un popolo frustrato, un popolo depresso, un popolo stanco, un popolo che stentava a guardare che ci fosse ancora uno scopo oltre quello che stavano vivendo. Quando siamo all'interno di valli di ossa secche, è questo l'atteggiamento che molto spesso viviamo. Stamattina una persona è venuta da me dopo il messaggio e ha detto: Sara, io oggi sento forte il peso di pregare per una persona che sta soffrendo moltissimo. Ha capito che c'era una battaglia, ha capito che c'era una valle di ossa secche nella vita di quella persona, e ha detto: io voglio mettermi in mezzo, io voglio fare la differenza, esco da questo incontro e voglio andare a casa di questa persona, perché non la voglio più vedere soffrire. Ezechiele è stato chiamato da Dio a fare questo, e Chiesa, questa è la nostra chiamata. Sentiti un Ezechiele, stasera sentiti un Ezechiele, stasera dobbiamo uscire da qui con l'idea chiara di quello che dobbiamo fare domani. Anzi, di quello che dobbiamo fare forse già da stasera, andare in quelle valli di ossa secche, in quelle valli di ossa secche, e cominciare a portare, a spingere, a profetizzare, a parlare la parola di Dio, a parlare vita, a parlare promesse, a parlare scopo, a parlare destini, perché non ci accontentiamo di quello che Satana ha fatto fino ad ora. Siete con me? Sì? Qual è l'atteggiamento che viviamo davanti alle valli di ossa secche? Possiamo registrare molto bene quanto sono secche, ma è importante che ci ricordiamo che in Cristo, nella parola di Dio, c'è un verso che descrive esattamente questa guerra e dice in Giovanni 10:10, il ladro non viene se non per ammazzare, rubare e distruggere. Ma, che belli ma di Dio, ma io sono venuto perché abbiano vita. E fino qui il nostro Dio sarebbe un Dio fantastico. Ma la parola di Dio, è Gesù che ha detto queste parole, va oltre, esagera. Il nostro Dio è un Dio esagerato. Lui non vuole che tu viva una vita bella, lui vuole che tu viva una vita abbondante. Guarda, quando dici la parola abbondante, è grandissima già nella tua bocca. È una vita abbondante quella che Dio ha per noi. Non è una vita regolare, non è una vita tranquilla, è una vita abbondante della sua presenza. Ecco che Satana viene per rubare, ammazzare e distruggere, ma Dio viene affinché abbiamo vita e l'abbiamo in abbondanza. E questo vuol dire che c'è sempre una battaglia tra quello che è il destino che Satana spinge nella vita delle persone e quello che è il destino che Dio vuole spingere nella vita delle persone. E noi vediamo queste battaglie molto spesso nei ritiri. Se non hai fatto un ritiro, iscriviti al corso di consolidamento 1, perché è un tempo bellissimo. Perché è così straordinario? Perché passiamo 3 giorni a vedere, proprio in maniera chiara, la battaglia che c'è nella nostra vita, quello che Satana ha messo e quello che Dio vuole mettere. Ecco che noi dobbiamo alzarci e dire non mi piace più. Non lo voglio, non accetto quello che Satana ha previsto per la mia vita, io non accetto le bugie di Satana, io non accetto il destino che il nostro nemico ha per la mia famiglia, io non accetto il destino di Satana per questa chiesa, io non accetto il destino di Satana per i miei vicini di casa. Perché? Perché conosco un Dio che vuole darci una vita abbondante, e se questo è a rischio, allora io mi metterò al centro davanti a quei carri armati a dire la parola di Dio dice questo. La parola di Dio è fantastica, la volontà che Dio ha è una volontà buona. Amen? Ci piace, molto spesso mi trovo a parlare con persone che vivono in un destino segnato da parte di Satana attraverso maghi, cartomanti, lettura di carte, non so, ognuno di noi sa. E molto spesso ci diciamo, quello che quella persona mi ha detto si è realizzato, è vero. Voglio dirti una cosa, Satana conosce molto bene il tuo passato, ma Satana non può conoscere il tuo futuro. Satana prova a costruire il tuo futuro e maghi, cartomanti, lettura di carte, eccetera, hanno il solo scopo di costruire il tuo destino. E sai, ci entri in quel destino e si realizza quel destino. Ecco perché dobbiamo spezzare queste catene, perché invece quello che Dio dice, quello si realizza pure. E noi vogliamo scegliere di vivere in quello che il Signore ci dice. Amen? Vogliamo pregare ora per tutte le catene e i destini che Satana ha stabilito e che non vogliamo più accettare. E io so che siamo qui e stiamo pensando, Satana ha detto questo, Satana ha confessato questo sulla mia vita, Satana ha profetizzato questo sulla mia famiglia, ma io non lo accetto più. Ti chiedo oggi di alzarti in piedi, se riconosci in te catene che Satana ha ammesso, o anche nella tua famiglia, o se vuoi oggi spezzare queste catene nella vita delle altre persone. Vogliamo subito prendere un minuto per pregare. Possiamo alzarci ora. Chi vuole spezzare queste verità? Chi vuole spezzare queste bugie? Non c'è niente di magico in quello che stiamo per fare, c'è di molto potente nel confessare quello che Dio ha previsto per la tua vita. Chiesa, se non sei in piedi, per piacere, prega ad alta voce, perché i destini sulla vita di questi fratelli e di queste sorelle possano essere spezzati. Alziamo la nostra voce. Signore, grazie, perché tu hai vinto contro ogni destino che Satana aveva stabilito. Tu spezzi ogni catena, nel tuo nome Gesù. Io voglio confessare catene spezzate, io voglio confessare maledizioni rotte, io voglio confessare destini cambiati dalla tua parola, nella tua volontà. Io dichiaro nel tuo nome, Gesù, famiglie libere, corpi liberi, malattie che si spezzano, legami generazionali che vengono spezzati. Ora la tua presenza, nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen. Sì? Ci credi? Amen. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è un Dio che cambia i destini. e lui si mette in mezzo. Possiamo accomodarci, lui si mette in mezzo. E se si mette in mezzo lui, mettiti in mezzo anche tu. Sì, come il prezzemolo nella vita degli altri. Entra e di... Dio dice un'altra cosa. Quanto è scomodo qualcuno che viene da noi e dice guarda quello che stai dicendo, non è nella parola di Dio. Ma quanto è scomodo per Satana questo? Quanto è comodo per Satana per una chiesa che sta ferma, che non si muove, che accetta tutto quello che gli viene, che viene intorno. Quanto è comodo per Satana avere una chiesa che non confessa sul proprio pianerottolo, io non vedrò famiglie distrutte. Quanto è comodo questo? Quanto è scomodo essere una chiesa che va e spinge. Che devi fare domani? Devi spingere. Scrivilo nella tua agenda. Domani devo spingere. Scrivilo, devo spingere. Devo spingere nella mia vita, devo spingere nella vita dei miei familiari. Sì? E quando Ezechiele profetizzava, mi piace che la parola di Dio usa, è mentre io profetizzai. Mentre io profetizzai, mentre Ezechiele parlava, mentre Ezechiele usava la sua bocca e le sue parole per costruire una realtà diversa, Dio ha cominciato a fare delle cose. Chi può profetizzare? Tutti noi. Tutti noi possiamo profetizzare. Profetizzare non è un evento, profetizzare non è aspettare che la colomba scenda, che, eventi, che le finestre tremino e che ci sia una lode incredibile, che i nostri polsi cominciano a tremare, le ginocchia a tremare. No, tutti noi siamo chiamati a parlare vita nella vita delle altre persone. Cos'è profetizzare? È parlare cose che non sono ancora accadute, è essere spinti dallo Spirito Santo a parlare verità nella vita degli altri, è prendere questa parola e spingerla anche se non vediamo niente ancora. Quindi chi può profetizzare? Tutti noi. E forse sei venuto qui dicendo Signore ti prego fai qualcosa per la valle di ossa secche che vivo. E sai cosa ci dice il Signore? Cosa sta dicendo a noi? Profetizza, figlio, profetizza, figlia, parla, parla, parla sotto l'unzione, la guida del suo spirito, parla parole, parla la sua volontà, parla quello che Dio ti ispira, parla quello che leggi, parla, metti vita. Mentre io profetizzavo, il profeta ha fatto un'azione. E Dio ci chiede di agire. Che cosa vede Ezechiele? Ezechiele vede delle cose strane. Come ho detto prima, ha cominciato a vedere un cimitero ed è arrivato a vedere una caserma. E vogliamo rileggere quello che Dio ha fatto dal verso 7. Io profetizzai come mi era stato comandato. E come io profetizzavo, si fece un rumore. Ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle. Ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse, profetizza lo spirito, profetizza figlio d'uomo e dia lo spirito. Così parla il Signore Dio, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. E io profetizzai come egli mi ha comandato. E lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita, si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Vi ricordate com'erano le ossa? Secche, molto secche. Com'è l'esercito? Grande, grandissimo. In completa opposizione. Dio non usa quasi mai mezze misure. Anzi, Dio non usa mai mezze misure. Dio è un Dio esagerato. Che succede quando noi profetizziamo? Che succede quando portiamo vita, quando spingiamo la volontà di Dio? Prima di tutto, che successe? Un rumore, un rumore. Quando Dio inizia a fare la sua opera nella Chiesa, si sente. Quando Dio inizia a lavorare nella nostra vita, si sente. Vero Chiesa? Quando Lui comincia a mettere le mani, a mettersi in mezzo, a fare cose, si sente. Si sente e cambia qualcosa perché? Perché non è più lo stesso rumore di prima, forse sei in silenzio, ma quando Dio comincia a fare qualcosa c'è rumore, si sente, gli altri lo sentono. Molto spesso le persone vengono da noi, forse ti è già capitato, e ti dicono ma che hai? ma c'è qualcosa di diverso in te, c'è qualcosa di strano, hai degli occhi diversi, sei diverso. Quello è il rumore, Chiesa. Quando Dio comincia a fare la sua opera in noi, lui fa rumore. Quando Dio comincia a fare la sua opera nella Chiesa, la Chiesa fa rumore. E noi siamo una Chiesa molto rumorosa, già di nostro, diciamo. Cioè, proprio quando arriviamo, sei proprio così, così. Noi siamo così. Ma quando lo Spirito Santo comincia ad operare, lui sì che fa un rumore che gli altri possono sentire, che è un rumore spirituale, che è un rumore soprannaturale. E qui che allora Modugno dice, ma che succede? Ma fammi andare a vedere. Che cosa è successo? Vi ricordate il 20 dicembre? Abbiamo fatto un rumore allucinante a Modugno. Sono venute tante persone, andiamo a vedere. Non solo per quello che c'era, per l'evento, bla bla bla. No, no, per il rumore che c'era. E la gente non ci ha detto che belli che siete stati, che bravi che siete stati. Ci ha detto, ma c'è qualcosa di strano. Ti è capitato questo con chi hai invitato? Che hanno detto, c'era un rumore. C'è il rumore della presenza di Dio. La seconda cosa che accade è che c'è movimento. Ed ecco un movimento. Quando Dio comincia ad operare, qualcosa succede. Le cose non rimangono come sono. Le cose iniziano a muoversi. Forse sei fermo. Forse quella condizione è ferma da tanto tempo. Ma quando il Signore inizia a mettersi in mezzo, le cose si muovono. Amen? Amen, Chiesa? E io sentivo molto che molti di noi si sono fermati qui. Hanno visto rumore, hanno sentito rumore, hanno visto movimento e basta. Io ti stimolo ad aspettare che completamente quella valle sia totalmente viva di nuovo. Non stancarti di vedere solamente rumore, non abituarti a sentire solo rumore, a vedere solo movimento. Perché? Perché Dio ha in mente una cosa molto più grande. Dio ha in mente un esercito numeroso. Dio non ha in mente solamente che le cose comincino a cambiare e si sente, no. Dio ha ancora un piano molto più grande. Che succede dopo? Che le ossa si avvicinano le une alle altre, si accostano, si avvicinano a Chiesa. Questo ci parla della Chiesa. Quando lo Spirito Santo comincia a lavorare su di noi, quando lo Spirito Santo comincia a portare vita nelle nostre esistenze, nei nostri destini, accade che noi ci avviciniamo l'uno all'altro. E accade che fino ad allora magari non hai guardato un fratello, una sorella, hai pensato non mi aprirò mai, hai pensato sto troppo male. Oh, è troppo quello che ho fatto, il mio peccato è troppo grande. Senti, voglio dirti stasera questo. Il Signore conosce ogni cosa. Se per Lui va bene, non che tu rimanga con quel peccato, ma se Gesù ti ha perdonato, io lo devo fare. Io lo devo fare. E quando siamo spinti da quella presenza, e lì il giudizio cade, lì i muri cadono. Sento molto spesso che nella nostra Chiesa vige una sorta di riservatezza. Che non è orgoglio, vero? Non lo dico. No. Quando lo Spirito Santo comincia ad agire, noi dobbiamo essere intimi. Noi dobbiamo essere intimi. Questa è una Chiesa che si fa chiamare famiglia. Tu con la tua famiglia sei intimo. Io con la mia famiglia vado al bagno insieme. Ora, non sto dicendo che dobbiamo andare in bagno insieme. Solo le femmine possono farlo, ok? Perché ci piace, noi femmine andare al bagno insieme, passarci i rossetti, eccetera, eccetera. Ma nella tua famiglia sei intimo. Nella tua famiglia sei senza giacca, senza scarpe, con i pantaloncini. E che significa, Sara, dovevo essere intimo con 300 persone? Sì, vieni, apriti, apri il tuo cuore, fai entrare le persone, crea alleanze nella tua vita, combatti insieme, non isolarti. Quanto più rimaniamo isolati, più rimarremo soli. Quanto più rimarremo soli, tanto di più non saremo quel grande esercito. Perché quel grande esercito si avvicina ed è insieme, è unito, è intimo. È intimo. E io prego che stasera lo Spirito Santo possa parlare al nostro cuore. E che non ce ne possiamo scappare da questo incontro. Non te ne scappare da questo incontro. No, so che mi metto in difficoltà, però se scapperai alla fine di questo messaggio, significherà che non vorrai essere intimo con gli altri. Sii intimo, resta dopo, parla, contatta, vai a pregare. Non vuoi dire, chiedi preghiera, vai da qualcuno, chiedi come stai, non scappartene. Così non potremo essere intimi, sai, io non potrò arrivare ad essere quell'esercito che Dio vuole che io sia, perché tu te ne vai. Quando io me ne vado, quando me ne scappo, quando io non ti sto aiutando, perché Dio ci chiama ad essere un esercito unito ed intimo. Ti piace? Ora tutti con i fucili a chi va via, no? Oh, se me ne vado, chi ha impegni deve andare via, ok? Non c'è problema, ok? Però abbiamo messo l'accoglienza appositamente per segnare i vostri nomi e la settimana prossima vi faremo venire tutti sul palco per fucilarvi, no? Scherzo. Avviciniamoci. L'altra cosa che succede è che si creano dei muscoli su quelle ossa. Si crea forza. I muscoli sono la forza del nostro corpo. I muscoli sono la parte che ci aiuta a fare movimento. Io sono forte nella misura in cui i miei muscoli sono forti. Ecco che lo Spirito Santo, quando comincia ad agire, ci dà nuove forze. Ci dà una nuova carica. Rinforza le nostre ginocchia, rinforza le nostre mani, rinforza la nostra lode, rinforza. Sai, stasera è successo qualcosa di molto, molto bello, e ringrazio il gruppo Lode. La Chiesa ha costretto il gruppo Lode a cambiare il programma, giusto? Mi piace, a Simona piace pure quando succede. Facciamolo. Anzi, facciamo in modo che il mixerista debba spegnere il mixer e che la Chiesa ha così tanto da adorare Dio che non servono le casse. Oggi abbiamo rotto una cassa a proposito, stamattina. Stasera continuiamo a rompere l'altra, ok? Perché quando una chiesa ha nuove forze, anche l'adorazione viene fuori diversa, anche il servizio viene fuori diverso, anche il nostro andare nei gruppi. Questa settimana avremo i gruppi. Che bello, vai con delle nuove forze, profetizza sulle persone, parla vita, spingi, chiedi a Dio: Signore, dammi nuovi muscoli. Voglio correre meglio, voglio correre più forte, voglio andare più lontano, non voglio stancarmi. E il Signore lo fa. Quando Lui agisce, Lui lo fa. Quando Lui dice una cosa, Lui lo fa. E sopra i muscoli, la pelle. Che bello che Dio non ci lascia scoperti. La pelle è la nostra parte più esterna, quella che vedono gli altri, quello che si vede da fuori. Io sono così, con la mia epidermide, voi mi vedete da fuori. E quando il Signore fa un'opera completa, anche quello che viene fuori è migliore, è diverso, è cambiato, è nuovo, è forte, non c'era e poi diventa. Non c'è niente, quello era una valle di ossa secche, eppure comincia ad esserci. E io, Chiesa, so che questa è una parola profetica per noi, perché il Signore sta mettendo rumore, il Signore sta creando movimento, il Signore ci sta avvicinando l'uno all'altro, il Signore sta mettendo dei nuovi muscoli, il Signore sta formando una nuova pelle. E sai, saremo fuori e ci vedranno fuori, su Facebook, al posto di lavoro, a scuola, nella città, nelle nostre città. Ci vedranno fuori dalle cose nuove che Dio mette in noi, dall'opera nuova che Dio sta facendo in noi. Ci piace questo? Ma sai, Dio è un Dio eccessivo, l'abbiamo già detto. A Lui non basta di vedere delle persone sane, ricostituite. No, Lui vuole che noi siamo perennemente bagnati, perennemente riempiti, perennemente freschi, perennemente ripieni, perennemente pronti a parlare quella vita. Sai come? Attraverso il Suo Spirito. E Dio dice ad Ezechiele: profetizza, di' allo Spirito, vieni dai quattro venti e riempi questi uccisi. Solamente quando lo Spirito Santo ci riempie, quando la Sua presenza è viva dentro di noi, allora diventiamo un esercito che si muove. Amen, Chiesa? Vogliamo alzarci in piedi? Voglio dirti quest'ultima cosa. Ognuna di quelle ossa, per quanto fossero numerose, non era lì per caso. Non c'è scritto che nemmeno un'ossa sia rimasta così. Nessuna parte, per quanto più piccola, è rimasta inutile davanti a Dio e davanti allo scopo che Dio aveva per quella valle. E Dio ci sta chiamando, come ha ispirato al cuore del nostro pastore, ad andare avanti insieme. E io ti dico che se sei qui non è per caso. Se tu fai parte di questa famiglia è perché il Signore non ha scelto per te che tu rimanga semplicemente lì bloccato, o che tu sia una parte inutile, o che il Signore voglia scegliere tutti quanti ma non te. Non è per caso che tu sei qui. e Dio vuole usarsi di te. Dio ha uno scopo con te, insieme, per andare avanti e vivere quell'esercito che Lui ci ha chiamato ad essere. Quindi, se sei qui oggi, sentiti parte di un piano molto più grande, che vede Gesù al centro, che ci vede pronti a conquistare nuovi territori, con una nuova forza, con una nuova visione, secondo l'ispirazione che lo Spirito Santo ha per noi. Amen. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Grazie perché Tu sei qui e Tu hai uno scopo più grande. Tu non vuoi che noi rimaniamo in valli di ossa secche. Tu non vuoi che la nostra vita rimanga piena di ossa secche. Tu non vuoi che la vita delle nostre persone vicine, dei nostri parenti, delle nostre famiglie sia piena di ossa secche. Io ti ringrazio perché quando Tu arrivi, Tu cambi le circostanze. E noi, Signore, vogliamo chiederti che la Tua parola, la Tua volontà possa andare avanti, che possa riempire quelle valli e che insieme, Signore, possiamo diventare quell'esercito che Tu hai in mente per noi. Grazie, Padre, per quello che Tu stai facendo, che quello che Tu continuerai a fare. Io prego di mettere il Tuo Spirito su ognuno di noi perché possiamo correre questa settimana secondo il Tuo scopo e la Tua volontà. Nel Tuo nome, Gesù. Amen.